notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Io mi permetto di ricordarvi che nel 2011, con il nostro governo costretto poi alle dimissioni a causa di un vero e proprio colpo di Stato, stavamo tutti molto meglio. Parola di Silvio Berlusconi, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, parleremo solo in parte di politica e se volete potete commentare anche questa affermazione di Berlusconi. Stavamo meglio tutti nel 2015 e nel 2011, scusate, stavo andando avanti col tempo, e potete scriverlo sia attraverso i messaggi, gli sms al 349-238-6666 oppure sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì. C'è già un ascoltatore che è stato un papiro da record, vi prego, cioè, siate sintetici, ha scritto 7 pagine su Facebook su questa cosa. Però vi dicevo, in realtà questa è una settimana non tanto connotata dalla politica, dai partiti, cioè in parte sì, ma invece da due grosse inchieste. Una che riguarda un fatto terribile di violenza che è ancora un giallo, e cioè la morte del piccolo Loris a Santa Croce Camerina vicino Ragusa. Ne parleremo. Ci sono degli ulteriori sviluppi anche oggi, sempre su diciamo delle incongruenze molto forti del racconto di sua madre. E poi l'altra inchiesta, dove un po' di politica c'entra, anzi, come sulla mafia capitolina, su questa piovra, questo ventre nero di Roma, l'inchiesta della Procura di Roma che si chiama Il Mondo di Mezzo oppure Mafia Capitale, che è stata definita in vari modi, dalla quale emerge questo consorzio del male tra politica, malaffare, criminalità, imprenditoria, eccetera. Quindi questa è la settimana. Intanto però, stiamo chiudendo, vi racconto anche quali sono le notizie in particolare di oggi. Crisi, l'agenzia Standard & Poor's declassa l'Italia da BBB a BBB- con outlook stabile, cioè con previsioni di stabilità per il momento. L'inchiesta su Mafia Capitale, emergono contratti tra il calciatore De Rossi e il boss De Carlo, rubato un computer in Campidoglio, il Movimento 5 Stelle assedia il comune, Berlusconi chiede lo scioglimento del consiglio comunale. Il delitto nel Ragusano, l'auto della mamma non sarebbe mai arrivata davanti alla scuola, il piccolo Loris forse gettato ancora vivo nel canale. Immigrazione, nuova strage di migranti, 17 morti su un gommone dalla Libia, l'ONU plaude all'operazione Mare Nostrum. Belgio, è morta la regina Fabiola, aveva 86 anni. Il rapporto del Censis, che fotografa un paese in cui cresce la povertà, l'incertezza e con un capitale umano dissipato. E per il calcio, in campo, nell'anticipo di Serie A, Fiorentina-Juventus. E partiamo quindi da questo declassamento dell'Italia. È arrivata poco fa la notizia, con 1000 stelline nelle agenzie. Pare che a questo punto è un grado sopra la spazzatura. Non so quanto dobbiamo preoccuparci, lo chiedo a un'esperta come Isabella Bufacchi del Sole 24 Ore. Ciao Isabella, cosa comporta questo declassamento da BBB a BBB-? Beh, buonasera a tutti. Ciao Isabella. Diciamo che ci siamo fermati, ecco, sulla quella che è cosiddetta la spazzatura, cioè quando iniziano le doppie B o le singole B. Secondo me il fatto più importante è che è vero da un lato che l'agenzia di rating Standard & Poor's, che è la più severa delle quattro che ci seguono sui mercati, alla fine ci ha declassati. Questo era nell'aria perché avevamo un outlook negativo e questo voleva dire che ci avevano già avvertiti, ci potevano declassare con un margine, diciamo, di 1-3 nell'arco di 2 anni. Quindi avevamo questa spada di Damocle. Adesso ci hanno infine declassati. Perché? Perché il nostro debito pubblico non solo è alto, ma continua a salire, mentre la nostra economia non si riprende e anzi siamo rientrati in recessione, quindi siamo oggettivamente un po' meno affidabili. L'altra cosa però, secondo me, che c'è da rilevare, che è sicuramente positiva, è che l'outlook è stabile, cioè effettivamente ci siamo fermati qui. E perché siamo stabili? Perché l'agenzia di rating Standard & Poor's, pur declassandoci, vede una possibilità di migliorare, perché non peggioriamo, siamo stabili e abbiamo in arrivo, e loro lo mettono nel loro comunicato, nel rapporto che hanno fatto su di noi, le riforme strutturali. Quindi l'Italia sta cercando di migliorare per aumentare la crescita, la competitività, la produttività, per aumentare i posti di lavoro, quindi ci saranno delle riforme. E dall'altro lato, non lo dimentichiamo, c'è la Banca Centrale Europea che ci sta dando un grande sostegno. Quindi molti si chiederanno: ma come mai lo spread è ai minimi storici, il rendimento di BTP scende e però quindi sembra che siamo più affidabili, poi Standard & Poor's peggiora. Beh, ricordiamo che da un lato è vero che il nostro debito pubblico sale, siamo in recessione, quindi abbiamo un debito pubblico altissimo, dall'altro lato però ci sono dei supporti, un supporto è quello della Banca Centrale Europea che con il quantitative easing non si sa, ma comunque per ora sta tenendo i tassi molto bassi. Questo significa che il nostro debito pubblico ci costa molto meno, cioè questi rendimenti bassi dei BTP in fondo vogliono dire che il debito pubblico, il tesoro, paga meno interessi sul debito, risparmiamo almeno in quel senso. Quindi insomma non c'è proprio un tuffo nella spazzatura, siamo un po' sopra e siamo stabili per quanto sì, dice siamo appunto stabili Sanipur. E dovremmo migliorare, questo è quello che dobbiamo fare, cioè dobbiamo risalire gli altri rating, abbiamo un'altra agenzia di rating che ci dà la singola, la meno ancora, quindi insomma la strada è quella adesso della risalita tra le riforme e i sostegni esterni. Grazie Isabella Buffacchi e speriamo che sia effettivamente quella la strada. Ciao Isabella. E adesso passiamo naturalmente all'inchiesta terremoto della Procura di Roma, sulla quale in serata Renzi ha commentato: quello che emerge dalle indagini in queste ore fa letteralmente schifo, un sistema di potere corrotto, denari e politici, non solo vale come sempre la presunzione di innocenza per tutti, ma vale anche l'auspicio che si faccia presto a fare i processi, perché abbiamo il diritto di sapere chi ha rubato. Si sono conclusi in giornata gli interrogatori di garanzia degli arrestati nell'inchiesta sulla mafia della capitale e la prossima settimana il GIP sentirà anche le 8 persone finite ai domiciliari. Dalle carte dell'inchiesta nel frattempo spuntano anche i nomi di personaggi famosi che avevano rapporti proprio con uno degli arrestati, Giovanni De Carlo, ritenuto un elemento di spicco del clan di Massimo Carminati. Si parla del calciatore della Roma Daniele De Rossi, del cantante Gigi D'Alessio, ma anche di Belen Rodriguez e del presentatore televisivo Teo Mammucari. Quest'ultimo gli avrebbe chiesto anche sostanze dopanti, in genere utilizzate per la palestra. Nella notte intanto dei ladri si sono introdotti negli uffici del servizio giardini del comune e della protezione civile e dopo aver rovistato in alcune stanze sono fuggiti portando via un computer. Sul caso indagano i carabinieri, che non escludono legami con l'inchiesta, visto che fra le persone finite in manette c'è anche Claudio Turella, un funzionario del servizio giardini che avrebbe incassato mazzette per pilotare appalti a favore delle cooperative finite nell'indagine. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E adesso sentiamo le reazioni politiche. Prima era il PD che paventava elezioni a Roma per un sindaco impopolare, adesso invece Forza Italia a spingere. Dopo l'inchiesta sulla terra di mezzo, Silvio Berlusconi chiede che il Campidoglio venga sciolto e si vada presto alle urne. Il Cavaliere promette di non candidare nessuno coinvolto nell'inchiesta. Dal canto suo il sindaco di Roma Ignazio Marino promette di non andare più in bici per motivi di sicurezza. Ma la proposta di Berlusconi incontra subito il no del ministro dell'interno Angelino Alfano. Il commissariamento del comune è un procedimento molto complesso e bisogna andarci con i piedi di piombo. Non si annuncia un commissariamento, anche perché il sindaco Marino non è coinvolto da queste vicende. Anche il presidente del Senato Pietro Grasso è contrario al commissariamento della città. Mi pare che il Comune di Roma sia assolutamente al di fuori di queste tematiche e che solamente alcuni sono coinvolti. Allora, per scegliere un comune ci vuole ben altro. E sul possibile scioglimento del comune interviene il prefetto Giuseppe Pecoraro. Ci sono comportamenti da mafiosi, ma la capitale non è in mano alla criminalità organizzata. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Intanto il PD ha offerto al Movimento 5 Stelle la vicepresidenza dell'Assemblea al Comune di Roma, ma i 5 Stelle dicono di no. La proposta è stata fatta prima dell'inizio dell'Assemblea del capogruppo del PD in Comune, Francesco Panecaldo. E a proposito di quello che sarebbe il capo di tutta questa organizzazione formata dall'intreccio tra politica, imprenditoria e criminalità, Massimo Carminati, sentiamo da Daniele Biacchessi qual è il filo che lega la sua carriera criminale tra passato e presente. Sono le armi, il filo nero che lega il passato al presente di Massimo Carminati. Sul finire degli anni 70 il capo della nuova mafia romana era affiliato ad una batteria della banda della Magliana, quella dell'Eur. Nel gruppo criminale il suo ruolo era duplice. Da una parte garantiva il collegamento con l'area dell'evasione di destra, Inar, dall'altra era l'uomo che conosceva meglio l'utilizzo di armi ed esplosivi. Tra le molte vicende in cui Carminati viene coinvolto c'è l'omicidio del direttore dell'agenzia OP Mino Pecorino.

determinare al ribasso le pene. E poi dall'estero, la regina Fabiola del Belgio è morta, lo comunica Palazzo Reale, aveva 86 anni. Il 15 dicembre del 1960 sposò a Bruxelles il re del Belgio Baldovino I, figlio del re Leopoldo III e della regina Astrid, nata principessa di Svezia. La coppia reale non ha avuto figli. E poi un lutto nel mondo della musica: è morto a Roma per un attacco cardiaco il compositore Manuel De Sica, figlio di Vittorio, fratello di Christian ed Emi. Era nato a Roma nel febbraio del 1949, aveva 65 anni, musicista di grande valore, tantissime le colonne sonore da lui realizzate. Ebbe una nomination all'Oscar per Il giardino dei Finzi Contini, ma vinse molti premi importanti, tra cui il David di Donatello per Celluloide di Carlo Lizzani. Da sempre impegnato a divulgare l'opera del padre Vittorio, gli ha dedicato anche il libro di Figlio in Padre, uscito per Bompiani nel 2013. E per chiudere c'è l'anticipo di Serie A. Anticipaci, Giovanni Capuano, come sta andando Fiorentina-Juventus allora. Ciao Giovanni. Ciao, 29 minuti, primo tempo, risultato 0-0, partita non divertentissima ma che si è già dimostrata sufficientemente intensa e piena di episodi. Tanto è il big match di questa giornata, anche se si gioca di venerdì sera. Ti dicevo degli episodi: uno per la Juventus, un colpo di testa di Llorente con salvataggio di Gomez praticamente sulla linea di porta, dunque Juventus che era andata vicina al vantaggio, Juventus che pure gioca senza Tevez, che è stato lasciato in panchina per riposare in vista della gara di Champions League. E poi al 20° invece ci sono state molte proteste da parte di giocatori e tifosi della Fiorentina per un episodio in area di rigore, un doppio contatto, prima una trattenuta di Chiellini su Gomez e poi il pallone che è finito sul braccio dello stesso Chiellini, l'arbitro signor Rizzoli ha fatto proseguire. Questa è una partita che storicamente regala sempre molti episodi di moviola e tante polemiche, non per nulla il designatore ha mandato Rizzoli, che è il numero uno, e con lui gli assistenti che hanno fatto insieme la finale al Maracanã, Rio de Janeiro. Però anche Rizzoli si è trovato a gestire una situazione complicata all'interno dell'area di rigore, poi vedremo dopo la partita nelle varie moviole. Comunque siamo alla mezz'ora, gara che la Fiorentina sta giocando con personalità, la Juventus non sta però demeritando e a tratti anzi riesce a mettere i viola nella propria area di rigore. Il risultato è comunque per il momento fermo sullo 0-0. A te. E qui ci lasciamo per poi aggiornarsi con Giovanni Capuano. Aggiorniamo intanto chi viaggia, molti magari si staranno spostando per il ponte, alla fine dovremo avere, se riusciamo ad avere il tempo, anche le previsioni per questo ponte. Intanto continuate con le vostre riflessioni al 349-238-6666 sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Per esempio qualcuno scrive a proposito di Berlusconi, che ha detto stavamo molto meglio nel 2011, dice sì, in realtà giravano molte più barzellette nel 2011. Nicola dice Berlusconi è l'uomo che mente sapendo di mentire di più al mondo, folle chi lo ritiene giusto e utile al paese. A tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci ancora insieme, molti vostri messaggi, dopo vediamo se riusciamo a leggerli, ma vedo che ha scatenato la frase di Berlusconi davvero molti commenti, l'ho fatta sentire all'inizio, che dice mi permetto di dire che nel 2011 stavamo decisamente meglio prima che ci costringessero quasi con un colpo, con una specie di golpe a dimetterci. Vi riassumo le notizie e poi andiamo su una delle più importanti di questo giorno e di questa settimana. Crisi, l'agenzia Standard & Poor's, l'avete sentito, declassa l'Italia da BBBB a BBB- con outlook stabile. Outlook significa previsione nei prossimi tempi, sarà stabile ma siamo a un livello sopra la spazzatura. L'inchiesta su Mafia Capitale, emergono contatti tra il calciatore De Rossi e il boss De Carlo, ho rubato un computer in Campidoglio, il Movimento 5 Stelle ha assediato il comune e Berlusconi chiede lo scioglimento del Consiglio Comunale Romano. Il delitto nel Ragusano, di cui parleremo tra poco, immigrazione con la nuova strage di migranti, 17 morti su un gommone dalla Libia. In Belgio è morta la regina Fabiola, aveva 86 anni, poi c'è il rapporto Censis che fotografa un paese in cui cresce la povertà, l'incertezza e con un capitale umano dissipato. E per il calcio avete sentito l'anticipo di Serie A, 0-0 Fiorentina-Juventus. Torniamo adesso a parlare, vi dicevo, degli sviluppi del questo giallo che riguarda la morte del piccolo Loris di 8 anni, ucciso strangolandolo e poi buttandolo in un canale a Santa Croce Camerina, vicino Ragusa. C'è con noi Giuseppe Savà, buonasera Giuseppe. Buonasera ai radioascoltatori. Buonasera. Giornalista di Ragusa News, quindi è proprio sul posto e sta seguendo, insomma è padrone del territorio e sa anche come muoversi, Peppe. E oggi diciamo che le notizie, le novità maggiori sono che da questo video, che già era in possesso degli investigatori nei giorni scorsi, non solo emergono le incongruenze, si diceva che forse il bambino non era in macchina quando è stata ripresa da questo video mentre andava a scuola, ma sembra che non sia mai arrivata in realtà davanti alla scuola con la macchina. Poi l'altra notizia riguarda queste, il giallo delle fascette, cioè queste fascette immagino i piccoli cavi elettrici, quelli di gomma, di plastica, che la mamma di Loris, Veronica Panarello, che ha 25 anni, avrebbe ridato alle maestre quando erano andate a casa a farle le condoglianze, dicendo questo era un materiale che Loris voleva, doveva usare a scuola per degli esperimenti, quindi ve lo ridò. Però le maestre hanno detto noi non abbiamo mai chiesto questo tipo di materiale mai usato a scuola perché sarebbe pericoloso. E poi l'altra notizia è che Loris forse era ancora in vita quando è stato gettato nel canale, questo ne parliamo dopo, semmai. È un particolare macabro che addolora ancora di più. Sì, purtroppo devo dire che le indagini, come tu hai ben detto, si concentrano sulle contraddizioni della madre, la quale freudianamente, inconsciamente, inizia a raccontare cose che hanno lasciato molto perplessi gli inquirenti. Le maestre del bambino vanno a fare la visita di condoglianze alla mamma del piccolo e la mamma prende delle fascette di plastica rosa e le consegna alle maestre dicendo queste appartenevano a Loris, Loris stava facendo un compito a casa di scienze e siccome non l'ha potuto concludere le regalo a voi. Fatalità vuole che secondo le ricostruzioni del medico autoptico il bambino sia stato strangolato con dei cavi elettrici, con delle fascette di cavi elettrici e che sia morto in seguito all'azione di strangolamento fatta da ignoti nei suoi confronti. Le maestre, come hai già detto tu, sono rimaste allibite perché nessun compito di scienza era stato dato al bambino, nessuno gli aveva detto di comprare delle fascette peraltro pericolose per i bambini perché a quest'età, a 8 anni, non sono in grado di capire la pericolosità dell'oggetto che stanno maneggiando e nessuno mai ha detto appunto di fare questo compito con delle fascette di plastica. Sembra che un'altra persona che viene dall'inconscio, dal subconscio di Veronica stia parlando e voglia dire qualcosa di cui Veronica non è totalmente padrona in questo momento. C'è un altro episodio che tu non hai detto e che è stato scoperto ieri, cioè Veronica ha lasciato il sacchetto dell'immondizia, il famoso sacchetto dell'immondizia che in una prima testimonianza, in una prima ricostruzione della giornata lei dimentica di raccontare agli inquirenti che aveva buttato questo sacchetto dell'immondizia. Poi si vede dalle telecamere che lei ha questo sacchetto e quando gli chiedono ma lei dove è andata a portare il sacchetto? Bene, lei non lascia il sacchetto nei pressi della scuola, dove era logico lasciarlo, non lascia il sacchetto dell'immondizia vicino a casa, che era anch'esso logico, non lo lascia al castello di Donna Fugata, dove è andata a fare un corso di cucina, ma lascia il sacchetto in direzione del Mulino Vecchio. Dove è stato trovato poi Loris, il corpo di Loris. E quando io ti dico che sembra Freud a parlare, non lo dico a caso, perché è come se qualcuno dentro Veronica volesse raccontare qualcosa di cui Veronica non ha perfettamente coscienza. Ciò chiaramente nulla toglie al lavoro degli investigatori, noi non ci possiamo sostituire agli investigatori, però ci sono particolari terribili, fra cui la circostanza che il medico legale ha raccontato oggi a denti stretti, e forse quando il bambino è stato lanciato nel canalone dal ponte a 2,5 metri d'altezza dopo che è stato strangolato, il bambino era ancora vivo. E quando è stato trovato alle 16:54 di sabato pomeriggio, il bambino aveva il cuore che ancora batteva, non poteva più essere salvato. Questo è l'unico conforto che paradossalmente abbiamo. Non poteva più essere salvato perché il medico ha detto che le condizioni ormai erano estreme, però non era stato ucciso del tutto. tutto, era in fin di vita quando è stato ritrovato. Senti, Peppe Savà, tra l'altro oggi, se non sbaglio è oggi che la polizia ha acquisito il GPS della macchina di Veronica Panarello, la mamma di Loris, no? Sì. E sembra che questo serva per avere una conferma sul percorso in auto che appunto lei sostiene di aver fatto la mattina di sabato. E che probabilmente non ha fatto, a questo punto, perché lei racconta circostanze, come abbiamo detto nel collegamento di ieri sera, che nessuno degli elementi oggettivi confermano, cioè le telecamere, la videosorveglianza non conferma la versione di Veronica, i vigili urbani che non ricordano di averla vista col bambino, lasciare il bambino davanti alla scuola, il panettiere, lei non ha comprato, stranamente, eccezionalmente, sabato mattina lei non ha comprato il panino per suo figlio, lei comprava ogni giorno il panino per il bambino, sabato non va dal panettiere. Ma sabato lei si intrattiene, lei persona molto poco loquace, sabato mattina si intrattiene con una vicina di casa e va a rendicontarle tutto quello che ha fatto e tutto quello che farà, tant'è che la vicina resta allibita e dice: ma questa non mi ha mai raccontato cosa fa lei, cosa ha fatto, come ha passato la giornata, invece è venuta a farmi una relazione dettagliatissima di tutti i suoi spostamenti. Sono circostanze chiaramente al vaglio. La sensazione che ho io, Roberto, è questa, cioè che gli inquirenti, prima di fare un passo importante, grave, pesante sul piano investigativo, vogliono avere tutte le prove possibili, tutte, perché un conto è fermare per indizio di reato un estraneo, altro è fare azioni di altro genere, quindi la sensazione è che passerà ancora qualche giorno, ma che per gli inquirenti il chiaro caso quadro sia, diciamo, abbastanza chiaro. La sensazione ulteriore che ho io è che qualcuno abbia collaborato nel disfarsi del bambino, del corpo del bambino, la sensazione mia è che qualcuno abbia aiutato l'assassino a disfarsi del corpo del bambino, ma il quadro indiziario pare abbastanza definito. Chiaramente dovremo aspettare il GPS, chiaramente dovremo aspettare l'esame del DNA, per cui occorrono ancora 4 giorni, chiaramente dovremo aspettare tutti i risultati degli esami tecnici, il luminol, eccetera eccetera, per avere un quadro definitivo sulle prove e non più sugli indizi. Infatti, Peppe Savà, io ti volevo quasi dire all'inizio, sembrava che la soluzione fosse quasi a portata di mano, che dovesse venire fuori di momento in momento da quando si è aperta l'indagine domenica, lunedì, invece poi ti chiedevo, quindi volevo chiederti, ma adesso ho capito che cosa intenditi, volevo chiederti se effettivamente poi si erano perse le sicurezze iniziali oppure se invece c'era proprio una prudenza da parte dei inquirenti rispetto a una cosa molto delicata, insomma. Rispetto a una cosa dove non si può sbagliare, cioè se un inquirente, se un magistrato, se un poliziotto, un carabiniere decide che il responsabile, il reo è una persona in particolare, non può agire se non suffragato da tutte le prove senza nessun errore. Senza nessun margine d'errore, perché lì non si può sbagliare, cioè lì devi essere sicurissimo del fatto che stai agendo nei confronti del reo, di chi si è macchiato del reato, non puoi sbagliare più, non puoi sbagliare più. Peppe Savà, io ti ringrazio moltissimo, vedremo che cosa succede questo fine settimana, probabilmente si andrà anche oltre. Un particolare triste, anche questo terribile, deprimente da raccontare. È un caso eccezionale, immagina che oggi è venerdì, il bambino è morto sabato. Quasi, è una settimana. Domani, una settimana, il corpo del bambino non è stato restituito alla famiglia e non verrà restituito alla famiglia nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Immagino per l'autopsia e gli accertamenti. Sì, ma l'autopsia è stata fatta una prima autopsia, un secondo approfondimento. Anche questa prudenza, questa ricerca spasmodica di ogni elemento che possa contribuire a delineare il quadro delle prove, è la dimostrazione del fatto che si vuole essere certi che quando verrà spiccato uno o più mandati di cattura, la persona che sarà arrestata, a questo punto non ci sono dubbi che troveremo, io non ho dubbi che troveremo il responsabile, e sarà la persona che realmente ha commesso questo atroce, terribile e inenarrabile reato. Grazie Beppe Savà. Grazie a voi. Grazie da Ragusa. Adesso prendiamoci una pausa. Fra l'altro stavo guardando mentre parlava Savada Ragusa la conferma di una condanna per un altro terribile omicidio, ve lo ricordate, era avvenuto nel 2012 a febbraio, me lo ricordo perfettamente, era una puntata particolare allora di un altro programma. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di Patrizio Franceschelli per l'omicidio del piccolo Claudio, il figlio di 16 mesi che l'uomo gettò, vi ricordate, nel Tevere a Roma il 4 febbraio 2012. Franceschelli era stato condannato a 30 anni con rito abbreviato sia in primo che in secondo grado per omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela. La perizia del tribunale l'aveva dichiarato lucido e cosciente al momento del fatto e quindi la Cassazione ha confermato la condanna a 30 anni. A tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Io mi permetto di ricordarvi che nel 2011, con il nostro governo costretto poi alle dimissioni a causa di un vero e proprio colpo di Stato, stavamo tutti molto meglio. E questa è una delle notizie di oggi, vi ho fatto sentire all'inizio, sono tantissimi i vostri messaggi. Ettore da Torino dice sì, nel 2011 stavamo decisamente meglio di oggi, dominati da Merkel and Company. Poi invece un ascoltatore dice lui stava meglio di sicuro. Sì, nel 2011 dice un altro ascoltatore era Berlusconi che stava decisamente meglio. Clotilde, ma non conosce vergogna, di questo possiamo ringraziare il fiorentino che gli dà dignità politica. E poi ancora, come disse all'epoca Berlusconi, fare festini con le ragazze, gli altri faranno con noi i nostri soldi. Non è molto chiaro questo messaggio di Beppe, ce ne sono moltissimi anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Alberto, Berlusconi dice quello che dice perché sa che gli italiani hanno la memoria corta e sono dei beoti, perché diversamente non si sarebbe permesso di dire così. Poi c'è Franco Castagnino che ha invaso la pagina Facebook, non è fatta per questi messaggi così lunghi, un'enciclopedia intera, uno sfogo incredibile. Che cosa gli è successo a questo ascoltatore? Non lo so, ha elencato una serie di cose che durano circa mezz'ora da leggere. Roberto, anzi Vito dice, stimo Silvio quanto un cavolo marcio, se ne stia calmo a vivere di ricordi, ha arrecato sommi danni all'Italia. Claudio dice invece sì, si viveva meglio. Alberto, ognuno si racconta le balle che preferisce. Insomma, sono moltissimi i vostri messaggi, ma vi riassumo le notizie del giorno intanto. Quindi a parte la politica, crisi, l'agenzia Standard & Poor's che declassa l'Italia da BBB a BBB meno con previsioni di stabilità, l'inchiesta su Mafia Capitale, emergono contatti tra il calciatore De Rossi e il boss De Carlo, rubato un computer in Campidoglio, il Movimento 5 Stelle ha assediato il comune e si chiede lo scioglimento del Consiglio Comunale, poi il delitto nel Ragusano di cui abbiamo parlato con diversi particolari che sono emersi oggi, e poi il Belgio, è morta la regina Fabiola, aveva 86 anni, il rapporto del Censis di cui parleremo tra pochissimo, e per quanto riguarda il calcio vedo che Fiorentina e Juventus procedono 0-0. Dicevamo quindi di questo 48esimo rapporto Censis del Centro Studi Investimenti Sociali, una fotografia annuale dell'Italia dalla quale emerge che il 47% degli italiani è convinto che il picco della crisi è ormai alle spalle, quindi questa è una cosa positiva, ma per oltre il 60% può capitare a chiunque di finire in povertà, quindi questo senso di incertezza, di vulnerabilità, diciamo pure di precarietà, che è forse il termine che meglio connota questi tempi. Una delle conferme di questa fragilità viene anche dal tasso di natalità. In Italia si fanno sempre meno figli, per 8 su 10 è colpa proprio della crisi. Ci sono varie altre conseguenze della crisi, ma coinvolgo Massimiliano Valeri. Buonasera. Buonasera a voi. Portavoce del Censis, che meglio ci dirà effettivamente se è un'Italia che anche psicologicamente, insomma, comincia a vacillare. Valeri. Beh, abbiamo detto che è passata la grande paura per la crisi, nel senso che c'è la convinzione, come diceva, che la situazione più difficile è alle spalle. Quello che oggi domina è un attendismo a causa di una situazione di forte incertezza. Questo per esempio porta le famiglie nel rapporto con i loro soldi a restare liquide. Zero consumi, i consumi sono diminuiti dell'8% negli anni della crisi, si sono dimezzate le compravendite immobiliari, e le persone rimangono con soldi liquidi, pronti per ogni evenienza per coprire qualsiasi rischio, soldi contanti nelle tasche degli italiani, soldi fermi sui depositi bancari. Quindi la tendenza a un ulteriore risparmio, già gli italiani sono risparmiatori tradizionalmente, questo significa che hanno ancora più paura adesso, proprio per questo, per quello che dicevamo prima, per questa paura che la povertà possa prima o poi toccare a tutti. Sì, c'è un meccanismo di sospensione delle aspettative e guardate, questo non riguarda soltanto le famiglie, ma anche il sistema di impresa, perché dal punto di vista delle imprese il dato più eclatante è che si sono fermati gli investimenti, le imprese hanno chiuso il rubinetto degli investimenti, siamo al minimo dal dopoguerra in termini di investimenti fissi lordi, anche quindi le imprese, l'incertezza, la recessione di questi anni e soprattutto questo meccanismo di sospensione delle aspettative ha paralizzato anche le imprese. Ora il rischio più grande è che noi entriamo in una fase di deflazione delle aspettative, siamo abituati a considerare la deflazione come una categoria economica, il rischio che corre l'Italia in questo momento è che la deflazione diventi una categoria dello spirito, perché se si fermano le aspettative si spegne il motore del desiderio, che è l'unica cosa che può riattivare i circuiti economici e occupazionali nel paese. Proprio di circuiti occupazionali, poi sempre in questo rapporto risulta che quasi 8 milioni di individui non sono utilizzati, a proposito di questo capitale umano inutilizzato di cui parla il rapporto, no? Quindi la disoccupazione altissima, tante risorse umane sprecate. Sì, un altro titolo che abbiamo usato è questo, siamo un paese dal capitale inagito, sia che si guardi la liquidità delle famiglie, sia che si guardi la liquidità delle imprese, è un capitale inagito e questo vale anche per il capitale umano, non siamo ancora un paese capace di ottimizzare al meglio i suoi talenti, per cui c'è appunto 8 milioni di persone, capitale umano che non si trasforma in energia lavorativa. Ma siamo un paese dal capitale inagito, se pensiamo anche all'enorme patrimonio culturale di cui disponiamo, che soltanto in minima parte riesce a produrre valore. Grazie Massimiliano Valeri, certamente una fotografia triste, speriamo la prossima volta di ritrovarci con una fotografia un po' più serena. Nel 2011 stavamo meglio, che lei ricordi, a proposito di fotografie degli italiani? Nel 2011 sono passati 3 anni e la situazione si è trasformata in attendismo rispetto a quella paura che avevamo allora. Grazie, grazie di nuovo. Buonasera. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Davvero tantissimi i vostri commenti, in particolare sulla pagina Facebook di Effetto Notte, quindi se volete andarli a leggere. Ah, vediamo, c'è un altro aggiornamento sul caso di Loris, se non sbaglio, eccolo qui, Loris auto, la madre a 50 metri dalla strada del Mulino Vecchio, ovvero dal luogo dove è stato poi ritrovato il cadavere del bambino, quindi non vicino alla scuola, ma è transitata a 50 metri dalla strada che porta al Mulino Vecchio, il luogo dove è stato trovato il cadavere, e quanto emerge da un rapporto di polizia e carabinieri che l'ANSA ha potuto visionare, l'auto è stata ripresa da una telecamera, quindi l'abbiamo detto che per una serie di video di telecamera del paese man mano stanno venendo fuori cose nuove sul percorso che fece la madre in quei giorni. E poi l'altra notizia, abbiamo parlato del declassamento di Standard & Poor's per quanto riguarda l'Italia e l'inchiesta su Mafia Capitale che va avanti con contatti che emergono tra malavita e anche personaggi dello spettacolo e del calcio. Europa 24 notte. Per quanto riguarda l'Europa parliamo di slavità. Serbia, la Serbia che è cerniera tra est e ovest, affronta oggi la sfida dell'ingresso nell'Unione Europea. Un tema caldo è il riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo, però i più tradizionalisti nel sud non intendono rinunciare alla culla della slavità. La maggioranza dei giovani invece è disposta al compromesso. Per i giovani la libertà di movimento nell'Unione per studio e lavoro rende l'Europa un sogno. Da un lato dichiara: we will not recognize Kosovo as independent. Non riconosceremo mai il Kosovo come indipendente. Dall'altro rilancia: è strategico per la Serbia entrare a far parte dell'Unione Europea. Nelle parole del ministro degli interni Stefanovic, questa è la Serbia di oggi. Belgrado è il terreno su cui si gioca la partita della storia internazionale da almeno un secolo. Oggi è il soggetto che potrebbe stabilizzare i Balcani, ma prima resta da chiarire la posizione nei confronti del Kosovo. Le nuove generazioni sembrano avere un'altra condizione consapevolezza, rivela Marina. La sensazione generale sul Kosovo è che ormai l'abbiamo perso, ma dall'altro lato c'è chi crede che non dovremmo rinunciarci. La parte meridionale è la più tradizionalista e non è orientata verso l'UE. Se osservate le città qui in Serbia, è un mix tra nuovo e vecchio. Siamo veramente pronti a mescolare il vecchio con il nuovo. Non siamo completamente pronti a dimenticare il nostro passato, ma siamo pronti ad accettare un compromesso. Basta camminare per le vie di Belgrado per toccare con mano l'orgoglio serbo. A due passi dall'hotel Moskva, in cui negli anni delle guerre balcaniche si tenevano importanti incontri diplomatici, è stato eretto recentemente un monumento. A spiegarci di cosa si tratti Noah, passato di lì per omaggiare la statua. Il monumento dietro di me rappresenta Nicola II, l'ultimo imperatore russo. È stato eretto come simbolo di gratitudine del popolo serbo e della nazione serba verso l'ultimo zar russo, che sacrificò la sua dinastia, il suo trono, il suo intero paese per difendere la Serbia nella prima guerra mondiale. Credo che la Serbia sia naturalmente vicina alla Russia e credo che sia solo naturale avvicinarsi alla Russia, ma non voglio che la Serbia sia integrata la Russia, come non lo voglio nell'Unione Europea. Perché ogni paese dell'Unione Europea aveva, ma ha perso la sua sovranità e non voglio che questo accada anche alla Serbia. Cerniera tra est e ovest, forse anche per questo, la Serbia si è ancorata nei decenni ad un forte spirito di appartenenza. Ora il paese sembra voler andare oltre. Lo stesso premier Vučić, con una gioventù passata tra le fila ultranazionaliste, vuole voltare pagina, come spiega Mike Col Davenport, ambasciatore a capo della delegazione europea in Serbia. Mr. Vučić said very clearly. Vučić ha detto molto chiaramente che la membership nell'Unione Europea was the number one. È la priorità numero uno e il primo obiettivo politico del governo serbo. Ivana ci aiuta a capire meglio il contesto. Se la Serbia dirà ok, riconosciamo il Kosovo, credo che le persone saranno arrabbiate. Suppongo che andranno nelle strade, ma credo che si spegneranno in pochi giorni, perché le persone sanno che questa è la migliore cosa che possano fare al momento. Essere parte dell'Unione Europea vuol dire avere migliori condizioni di vita. Claudia Vanni, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa 24 Notte, in collaborazione con Euronet Plus. E ora è tempo di sapere che tempo fa, visto che molti faranno anche il ponte, lunedì è festa, e non so se sarà festa anche di tempo. Paolo Corazon, meteorologo del 3B Meteo. Paolo. Buonasera Roberto, ciao. Buonasera a tutti. Ma mi ha fatto ridere quando oggi ci siamo sentiti, detto, allora ci darai buone notizie, come se dipendesse solo da me. Hai un ruolo di responsabilità in questo momento, quindi vedi tu, insomma, se davvero, ti aspettano poi sotto casa. Sì. Beh, guarda, a grandi linee sarà un ponte che inizia maluccio ma finisce molto meglio, quindi non sarà così malvagio, anche se appunto la partenza, la giornata di domani, vedrà ancora molte nuvole in tutta Italia, ancora delle piogge che risulteranno più insistenti e intense sulle regioni tirreniche, Toscana, Lazio, Campania, Calabria, Sicilia, avranno anche forse qualche temporale, quindi precipitazioni localmente piuttosto intense. Nel resto del paese un po' meglio, ma ripeto, domani giornata così e così. Invece tra domenica e lunedì le schiarite saranno veramente ampie, quindi un po' in tutta Italia ci sarà modo di rivedere un po' di sole, le temperature tra l'altro ancora si aggirano su valori al di sopra delle medie del periodo, quindi il freddo per il momento non è arrivato, quindi insomma un ponte che riusciremo in qualche modo anche a godercelo. Quindi il freddo, Paolo Corazzone, in realtà non arriva, perché ho sentito da qualche parte avremo un assaggio di freddo invernale, poi passerà? In realtà arriva nel senso che arriva dopo il ponte, alla fine proprio del ponte, quindi ci lascia stare per queste tre giornate, ma alla fine della giornata di lunedì arriva la perturbazione che aprirà la strada alle correnti fredde invernali. Quindi a partire dalla giornata di martedì le temperature caleranno sensibilmente e in settimana cominceremo a respirare un po' di aria invernale. Beh, Paolo, a quello ci penseremo dopo, a questo punto, perché qui bisogna vivere la giornata, anche per quanto riguarda il meteo. Va bene. D'accordo. Comunque sia, buon tempo a te allora, Paolo Corazon. Grazie, buon ponte a tutti. Ciao, grazie. Vogliamo adesso adesso capire invece con Giovanni Capuano la partita d'anticipo Fiorentina-Juventus, come sta andando Giovanni? Ciao Roberta, siamo ancora sullo 0-0, tre minuti nel corso del secondo tempo, partita che è molto bloccata, poco divertente, poco spettacolo, una sola vera occasione da gol fin qui, quella che vi abbiamo già raccontato prima con il colpo di testa di Llorente allontanato sulla linea da Gomez e poi quell'episodio che ha fatto molto discutere anche nell'intervallo che vi avevamo descritto con quel doppio tocco di Chiellini in area di rigore, prima una trattenuta su Gomez e poi un tocco sull'abbraccio, da lì in poi la partita si è anche molto incattivita e Rizzoli è stato costretto ad estrarre quattro cartellini gialli nell'arco di 10 minuti, Pizarro e Cuadrado per i giocatori della Fiorentina, Ogbonna e Chiellini tra i giocatori della Juventus. Le squadre sono rientrate in campo senza alcun cambio, partita che sta rispettando il copione del primo tempo, partita davvero complicata, ma del resto si sapeva che questa era una trasferta delicata per la Juventus che è capolista, domani c'è Roma-Sassuolo, Juventus che rischia di vedersi avvicinare i giallorossi. Grazie Giovanni Capuano. Ciao Giovanni. E intanto stavo vedendo che è arrivata un'altra notizia riguardo al caso di Loris. Secondo la ricostruzione degli investigatori non arriva mai a scuola il bambino la mattina del 29 novembre, torna a casa da solo alle 8.32 subito dopo esserne uscito, 17 minuti dopo alle 8.49 rientra anche la madre Veronica Stival che esce nuovamente 36 minuti dopo alle 9.25 circa. Stanno cominciando a uscire così un po' per volta i rilievi fatti attraverso questi video registrati dalle telecamere. Ci sentiamo tra poco.